Ma non fa, è una, ma guarda che mia moglie non è mia moglie, non è mia moglie, è una signora che ha una sua testa, una sua politica e una sua esistenza. La Zanzara. Sei ancora a casa? Siete delle merde! Vabbè, adesso lì c'è il nano che parla. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Beh, caro David, qui siamo alla punturina, quella doppia, anzi forse tripla direi, eh. Punturina, dai, tripla. Stai attento, perché come dicono a Roma, stai a marca male. Quella roba della Santanchè che ha isolato, del nano, sì. C'è una diffida ufficiale firmata dal professor Taormina, che è l'avvocato a cui ho dato mandato per seguire questa pratica, sì. Mi diffido dal mandare in onda quella roba sul nano. Ma figurati, io me ne fotto, la mando lo stesso, e che me frega a me. Andiamo avanti. Vabbè, la punturina tripla ovviamente per Berlusconi, che pochi istanti fa, e ve lo proponiamo in anteprima assoluta, mondiale, direi planetaria, pochi secondi fa ha fatto una mezza marcia indietro. In realtà non l'ha fatta, ha detto che forse si candida, forse no, dipende da cosa, non si sa, insomma ancora era nell'aria, un mezzo caos. Sì, però in realtà non ha fatto nessun passo indietro, ha detto una cosa che è pazzesca. Ha detto di aver incontrato una volta Monti e di avere chiesto a Monti, ma insomma perché non ti candidi con i moderati contro la sinistra, e poi ha detto se Monti gli avrebbe detto no, eccetera. Se lui facesse questo passo, Monti, dice Berlusconi, io potrei anche fare un passo indietro. Cose incredibili, sentiamo. Se questa posizione che Monti mi appalesò in un discorso molto serio e approfondito cambiasse, io dichiaro che per quanto mi riguarda non avrei nessuna intenzione a ritirare una mia candidatura eventuale alla Presidenza del Consiglio. Potrei, se si crede, accettare anche di essere il coordinatore dell'Assemblement, potrei accettare di non essere niente di tutto questo e di dedicarmi soltanto al mio movimento politico. E la frase più bella è il coordinatore del Rassemblement. Esatto, Rassemblement, sì, perché lui parla francese. È incredibile come lui tenga sotto scacco il paese, molto bello però tutto questo. Aspetta un attimo, perché pochi giorni fa così condannava il governo Monti, lo stesso Monti che lui adesso vorrebbe capo dei moderati, contro la sinistra. Tra l'altro Berlusconi vuole pure l'alleanza con la Lega, la quale ha un giudizio su Monti che tutti conosciamo, cioè sono delle robe incredibili. Infatti la cosa strana è che non ci sono due persone vestite di bianco che a un certo punto l'hanno portato via. Aspetta un attimo, ti faccio sentire come condannava il governo Monti pochi giorni fa. Sì. Abbiamo fatto dei passi indietro in tutte le direzioni e il paese si è infilato in una spirale recessiva che dà molte preoccupazioni. Un pazzo fra scossoni e patatrac, ora un piede ti fa male, il dottore ti dirà. Vabbè, insomma, siamo agli infermieri, eh? Siamo agli infermieri. Chiamateli subito, subito. Giannino, questa mattina sentiamo su Berlusconi che si sente perseguitato dalla Deutsche Bank. Senti. Io sono intanto da Gianni i formaggi. E chi se ne frega? Il signor Gianni che ti saluta. Ieri ho parlato con una persona, dice, ho avuto una telefonata a lungo con Berlusconi che mi ha detto che lui è vittima di un complotto della Deutsche Bank. Gli ho chiesto, ma te l'ha detto sul serio? E lui dice, sì, serissimo. Capite? Come il vento andavi tu, ad un tratto hai fatto un volo e ti sei trovato giù. Ora ti fa male un dito e il dottore ha detto... Vabbè, vogliamo risentire dell'utile di ieri? Dell'utile di ieri su Alfano, gli mancano gli attributi, ancora un attacco a tutto spiano, ad alzo zero contro Alfano. Perché sta zitto? Perché gli mancano gli attributi che ho detto, evidentemente. Chiamiamolo così. Non lo so, ma che altro? Uno non può darsi il coraggio. Come diceva il Manzoni, se uno non ha il coraggio non se lo può dare. Sì, pazienza, rimane comunque una brava persona. no, io direi perché no. Aspetta un attimo, Gasparri, ma senti, io me ne frego dei tuoi formaggi stasera. Abbiamo già un ospite in attesa qui. Adesso tu devi farci perdere tempo con i tuoi formaggi da Gianni. No, lo sappiamo, ormai l'abbiamo archiviato. Cosa, la sera Gianni ogni tanto voleva dire una cosa all'ospite dopo che abbiamo lì, poi te lo... Vabbè, fammi dire che vuole Gianni. Gianni, aspetta un attimo che qui c'è in diretta. Ma cosa vuole? Pronto, buonasera. Buonasera, signor Gianni, lei è favorevole al ritorno di Berlusconi? No, per carità. Perché? Che fa Berlusconi? Che non fa niente, non fa, non è non tanto fa, quello che non fa, quello che non fa. E con questo abbiamo detto tutto, grazie. E ho detto tutto, arrivederci. Gianni il formaggiaro ha detto la sua su Berlusconi. Gasparri, il 10% delle candidature di quelli già in Parlamento, la cosa che aveva detto Berlusconi, anche se poi l'aveva corretta. Lascia il tempo che trova, io rientro come voglio. Giornataccia? No, no, non giornataccia, perché giornataccia? Lei questo una 10%, questo 10%. No, vabbè, ma queste cose insomma lasciano un po' il tempo che trovano. Lei, che un XN potrebbe non rientrare. No, no, guardi, io rientro dove voglio io, se voglio stare lì o se voglio fare altre cose, quindi è esattamente il contrario. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino e hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà. Basta fare una puntura. Oh, l'interpretazione del Bunga Bunga, secondo Sara Tommasi, è rispuntata pure lei a presentare un libro con quattro gatti. I Bunga Bunga, secondo Sara Tommasi, è. Aspetta, aspetta, secondo Sara Tommasi, è. Fammi parlare. Il Bunga Bunga non era altro che un rullo di tamburi, cioè le persone che quando si volevano scendere a ballare si andava a ballare, tutto qui. Tutte quelle cose che hanno raccontato sulle statuine. No, ma quali statuine? No, ecco, io l'angioletto, porto sempre con me. Il Bunga Bunga, un rullo di tamburi. Il dottore ha detto già, basta fare una puntura e tutto passerà. 800 24 00 24, ti metti un attimo calmo per favore, Parenzo, che non si sente niente, c'è un fastidioso rumore di sottofondo che mi dà un mi fa venire il nervoso. È con noi il vice segretario della Lega Nord, Federico Caner. Buonasera. Pronto. Buonasera, come sta? Buonasera a lei e all'amico David. Come sta? Caner si chiama. Caner, Caner, ho capito. Bravo Davide, correggilo. Vabbè, vabbè, ma non c'è niente di male. Caner si chiama Salame, Caner, perché è veneto. Caner. Quando sarà diventato, bravo, quando bravo, sarà diventato un top nella politica italiana, ancora diciamo siamo no, sulla buona strada. Indovinerò anche il cognome di Canerra, no, non ti preoccupare. Si tratta di capire, di avere rispetto delle tradizioni locali, dei ma cognomi e dei nomi ma dei che territori. Scusi, ma Berlusconi, voi già avete detto che con Berlusconi, se Berlusconi si presenta, non fa dell'alleanza né in Lombardia né in Italia. È vero tutto questo? Confermate tutto, perché anche cioè, non è che avete cambiato idea anche voi oltre a Berlusconi? No, no, no, no, guarda, allora sicuramente faremo un ufficio federale, insomma. Vabbè, ci riuniremo per capire bene la posizione, però insomma la posizione mi pare abbastanza chiara, non è proponibile fare un'alleanza di nuovo con Berlusconi, insomma, credo che cioè con Berlusconi, lei dite, se Berlusconi corre a Premier, non con il PDL in generale. Ma allora, posizione mia personale anche con il PDL, e non solo mia personale, ma anche di tanti militanti e sostenitori della Lega, perché onestamente ne hanno un po' le scatole piene di quello che è successo in passato. Cioè, secondo lei bisogna, la Lega deve andare da sola? Sì, sì, sì, secondo me in questo momento storico vale la pena che facciamo un passo di questo tipo qua. Ecco, ma la base che cosa dice? Anche delle cose irripetibili su Berlusconi? No, che dice, direi di sì. Ah, la base non è il caso che vada a ripetere. Dicono cose irripetibili. Radio. Dicono cose irripetibili. Mi limito a così l'atteggiamento di tipo politico. E quindi nano, cosa dicono? Dire. Nano, il nano di Arcore. No, beh, ne dicono di tutti e di più, ma insomma non si possono dire in radio, dai. Cioè, Bunga Bunga, ladro, mafioso. Il rispetto personale ci deve essere sempre, secondo me. Ma secondo lei, scusi, Berlusconi, adesso gli dia un consiglio personale, lei è giovane, eccetera, però, insomma, meglio i Caraibi che il ritorno in politica, o no? Beh, insomma, credo che a una certa età, con la possibilità finanziaria che ha, fossi al suo posto, magari me ne andrei da qualche altra parte. Ma dove? A godermi la bella vita, invece che star qua. Invece che sta qua a combattere con Alfano, con Cicchitto, con la Russa, eccetera. Esatto. No? Perché non godersi i propri denari, lei esatto, dice, no? Nelle tante esatto residenze. Sì. Però scusi, è abbastanza curioso, adesso capisco la questione politica, eccetera. Ci sono anche dei sondaggi che dicono che la Lega perderebbe dei voti se andasse con Berlusconi alleato. Però perché Berlusconi sì, per esempio, Gentili, Berlusconi no, e Gentilini a Treviso, che ha 83 anni, sì, è vero che è un uomo vostro, eccetera, però anche lì, insomma, è un leader anziano di 83 anni. Perché? Sì, ma guardi che il problema non è l'età, non è una questione di età, è una questione di come si è fatta la politica fino ad ora. È bravissimo. Gentilini ha gestito benissimo la propria città, è amato dai cittadini trevigiano, è amato dai leghisti, è uno che dice ciò e perché che pensa, Tremonti sì? Perché Tremonti sì, per esempio, che è stato tanto tempo al governo con Berlusconi e Berlusconi no? Anche lì c'è un minimo di contraddizione, cioè Tremonti è stato ministro di Berlusconi, con voi, per carità. Sì, per carità, ma guarda che noi non diciamo di no a tutti gli esponenti del PDL. Per esempio, noi in Regione Veneto stiamo governando bene con gli esponenti del PDL. Abbiamo delle situazioni in varie città, in varie comuni, dove con parti, diciamo, del PDL, con le persone oneste, preparate e competenti, siamo disponibili a continuare a governare. Scusi, però Bossi, mi sembra che la pensi in maniera diversa, da quello che si sa. Bossi, credo invece che voglia un nuovo patto con Berlusconi, risulta anche a lei? Insomma, a me questa cosa qua non risulta, non è mai stata discussa in Consiglio federale, sinceramente. E in ogni caso, comunque, il segretario federale è Maroni, quindi la linea la decide Maroni, quello che dice Bossi, Maroni, quello che dice Bossi, il Consiglio federale. Quello che dice Bossi ormai conta poco. Quello che dice Parenzo, di quello che dice Bossi. Io rispetto le opinioni di tutti i leghisti che hanno fatto la storia della Lega, però il segretario federale è Maroni e il Consiglio federale deciderà. Quindi, da questo punto di vista. Ecco, scusi, da questo punto di vista, dire Caner che Berlusconi, possiamo diciamola alla leghista, come lo direbbe chiunque, no? Sì. Berlusconi in questa fase ha rotto i Maroni, laddove Maroni non è il ministro, l'ex ministro, ma ha rotto i Maroni. Possiamo dirla così? Beh, dai, non diciamola proprio così. Vabbè, Caner, però un'altra cosa, scusi Caner, però non dovrebbe fare come Bossi. Bossi, da quando, diciamo, Maroni è segretario, parla poco, non si intromette poco, almeno insomma in apparenza, sui giornali, sulla stampa, nell'opinione pubblica. Dovrebbe fare come Bossi, cioè quasi ritirarsi Berlusconi, non sbaglio? No, beh, secondo me, insomma, ha dato quel che doveva dare, adesso dovrebbe, insomma, siamo sempre qui a discutere. Comunque, di lasciare spazio ai giovani, nuove generazioni. Onestamente, però, diciamo una cosa, in verità, su Berlusconi possiamo dire di tutto di più, ma non mi pare però che neanche dall'altra parte, con Bersani che torna in campo, insomma, vogliamo lasciare un po' di spazio a qualche un po' di rinnovamento. Io lo vedrei bene da ambo le parti, onestamente parlando. Una bicicletta nuova io ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Intanto sta scoppiando il casino, caro Parenzo, sulla intervista di Dell'Utri ieri qui alla Zanzara, in cui Dell'Utri insomma ha detto delle cose pesanti ancora una volta su Alfano. E gli hanno risposto La Russa e altri in maniera abbastanza decisa, dicendo che sostanzialmente Dell'Utri non si deve ricandidare. Ma tanto lui è un untouchable. Chi? Dell'Utri è un untouchable, è un intoccabile. Vedremo. 800-24-00-24, questa è la Zanzara, con noi uno dei giovani rampanti della Lega, uno dei leader del Veneto, Federico Caner, vice segretario e vice di Maroni, che dice con Berlusconi mai e poi mai. Si può dire mai e poi mai, Caner? Sì, dai, possiamo anche dirlo. Diciamo che non è più il momento per fare alleanza. Ecco, ma a Roma voi vi candidate nel 2013 o no? Ancora non si è capito. Ah, certo che sì. Certo che sì. Bossi, per esempio, si candiderà in Parlamento oppure secondo lei... Le candidature dobbiamo ancora farle. Però, la sua opinione qual è? La sua opinione La mia opinione è che in generale nella politica ci vuole italiana ci vuole un po' di rinnovamento. Questo vuole un quindi po' candidiamo. Dunque Bossi non è una questione di Bossi, sto facendo un ragionamento in generale. Beh, d'accordo, insomma. Però Bossi va candidato in Parlamento alle prossime elezioni, sì o no? E noi siamo giornalisti. Allora, Maroni ha detto che non si candida nemmeno lui in Parlamento, indipendentemente dalla situazione della Lombardia. E dunque? Cioè del fatto... E dunque? E dunque vuol dire che un po' di ricambio generazionale lo vuol fare, ma quindi questo non vale per Bossi, no. Vale per tutti. Dunque, ripeto. Bossi e altri che hanno fatto magari più legislature, che sono avanti negli anni, non saranno ricandidati, non saranno della partita. Oppure ci sarà un parziale ricambio. Anche le deroghe, fate le deroghe anche voi come PD? No, giusto mix secondo me è corretto, però bisogna inserire anche dei giovani, perché altrimenti il ricambio non ci sarà mai. Vabbè, ma Bossi? Bossi non lo so, deciderà il Consiglio federale. Vabbè, ma la sua opinione qual è, Caner? Se vi ripresentate con Bossi, non è un po' un passo indietro? La mia infatti sto dicendo che la mia opinione personale è quella che sia giusto fare un po' di ricambio. Quindi un attimo solo, Caner. Un attimo. Pronto? Pronto? Sì, sì, buonasera, cerchiamo il signor Bossi. Sì? Pronto? Sì. Cerchiamo Umberto Bossi. Pronto? Sì, sì, pronto. No, sono, aspetti un secondo, sono in macchina e... Sì. Sto parte, guidando, non riesco a fermarmi da qualche parte. Sì, eccomi. Sì. Cerchiamo Umberto Bossi. Umberto Bossi? Sì, evidentemente non è lei, ci scusi, eh. Grazie. Certo. Grazie, grazie. Arrivederci. Niente. Mi chiamato. Eh? Ma chi avete chiamato? Ma che ne so, abbiamo sbagliato numero. Umberto Bossi. Ciao. Non avete nemmeno il numero. Avevamo un numero segreto, in realtà. Volete farmi gli scherzetti e poi non mi riesco bene. No, ma che scherzetti? Noi mai, figuriamoci. No, no. Ho sentito Caner, non mi vuole ricandidare. Vabbè, comunque, lei non ce lo vede, Bossi, di nuovo in Parlamento. Non è questione di posti. Non ce lo vede, non ce lo vede. No, è questione che bisogna fare un po' anche uno scatto di reni, insomma, altrimenti rischiamo di perdere credibilità. Ma questo non è nei confronti di Bossi, è nei confronti un po' di tutti quelli che hanno fatto tante legislature, insomma, un po' di gente nuova. Ci vuole mixando un po' il tutto, perché io non sono un rottamatore tipo Renzi, cioè via tutti. Bisogna fare un passaggio tra nuove generazioni. Ho capito, però qualcuno di esperto, secondo me, deve ma non Bossi. Ma perché dovete farmi dire a tutti i costi no Bossi? Cioè, queste cose qua le deciderà il Consiglio federale, punto. Va bene. Io ho un ruolo, sicuramente sono all'interno del Consiglio federale, dirò anche io la mia. Ma Bossi ha detto che Monti deve sparire dalla faccia della terra. Lei è d'accordo su questo? No, beh, insomma, io per formazione mia personale non sono mai così rigido sulle questioni personali. Dal punto di vista politico sicuramente si deve sparire. Dal punto di vista personale, per carità. No, vabbè, lui ha detto deve sparire dalla faccia della terra, non so se si riferisse a Monti Infatti su questo non sono d'accordo, perché secondo me il rispetto delle persone ci vuole sempre. Poi dal punto di vista politico è bene che sparisca dal panorama politico, questo sì. Comunque, ma non potrebbe essere un compromesso di cui si parlava, Tosi candidato premier anche con un accordo col PDL, un po' fantapolitica magari, Dai, insomma, non so, da dove le prendete queste notizie, scusa. No, vabbè, ma noi giochiamo dal anche solo dal formaggiaio di Parenzo. Dal caso comunque, fosse per lei, la Lega andrebbe da sola senza accordo con PDL né in Lombardia, perdete, lo sapete, se non c'è un accordo almeno o no. Cioè, no, non è detto, perché no? Guarda, io credo che in certi momenti le scelte più semplici e coraggiose, come diceva Churchill, pagano. E quindi da questo punto di vista qua credo che se noi riusciamo a fare una bella campagna politica con Roberto Maroni, che comunque è il miglior cavallo, senza che sporcarvi, dice, senza sporcarvi col PDL, sì, dice. Sì, puliti, via, tranquilli. No, una questione di sporcarsi, puliti, tranquilli con il nostro progetto, andiamo avanti. Senta Canero, un'ultima cosa riguarda questo, ma oggi questo Berlusconi che resuscita Monti, no? Prima dice delle cose contro Monti, oggi lo vorrebbe addirittura capo dei moderati. Come le sembra? Mi dia una definizione, schizofrenico, bipolare, cioè da manicomio, scusi, no? No, in effetti non riesco a capire questi continui cambi di direzione. È da manicomio, sì o no? Da ricovero, no, dai, da manicomio no, forse insomma... Una visitina, si pare, una visitina. Spero che non sia l'età che avanza, perché sti cambi di direzione repentini in effetti lasciano un po' di liderare. Beh, un po' di atterosclerosi ci sarà, forse, no? No, dai, ma siete cattivi però. Perché dobbiamo dai. Fare? Ma scusi, ma lei come le interpreta queste cose? Monti è la causa del disastro dell'Italia negli ultimi mesi, poi lo vuole candidare a capo dei moderati. Quando diceva quelle cose lì mi piaceva, e poi il bianco ha fatto marcia indietro, si vede che, non so, l'avranno convinto o forse cercava di strappare qualche accordo, anche ne so, o forse non sa che fare. Io la combatto da ore. Beh, caro Parenzo, sta accadendo di tutto alla conferenza stampa di Berlusconi, che doveva essere la presentazione del libro di Vespa, ma in realtà di Vespa è rimasto ben poco, è rimasto solo Berlusconi, solo il libro, la copertina del libro. Berlusconi, tra l'altro, che ha appena detto la televisione pubblica lascia insultare un ex premier, e questo riferendosi alla Littizzetto. Sentiamo Berlusconi in diretta, sentiamo uno show pazzesco. Italia, perché è stato uno dei cinque fondatori e poi ha dato vita sta parlando di altro. Ha minacciato la Lega di far cadere i governi del Piemonte e del Veneto se non si dovesse trovare l'accordo con Maroni, presidente di Lombardia, e lui candidato premier. Ma è scatenato. Aspetta, senti. Se la Lega, nel caso, non arrivasse con noi a un accordo circa la candidatura mia alla presidenza del Consiglio, o noi non arrivassimo a un accordo circa Maroni, presidente della Lombardia, e la Lega decidesse di andare da sola, succede che immediatamente cadrebbero anche i governi presieduti da uomini della Lega del Piemonte e del Veneto. Allora la domanda è questa: ma Berlusconi ha il potere di far cadere le giunte di Cota e di Zaia in Veneto, come minaccia di fare se la Lega non lo appoggerà in Lombardia con Maroni candidato e a livello nazionale come premier? A parte che poi ha detto che se Monti e Montezemolo aderiscono ai moderati, addirittura Montezemolo glielo chiede, lui farebbe un passo indietro. Ha detto tra l'altro che Dell'Utri non sarà candidato in questo momento, Canerre è ancora con noi lei? Sì, sono tornato qua. Allora, il Veneto, mi dica qualcosa sul Veneto. Berlusconi ha la pistola scarica, può far cadere la giunta di Zaia? Ma guardi, da come conosco io e i miei colleghi del Veneto, da come stiamo amministrando qui tra Lega e PDL, non credo proprio. I cittadini non capirebbero una cosa di questo tipo. La vedrebbero come un ricatto e come tale lo tratterebbero. Quindi io personalmente sono serenissimo, anzi, raccoglierei una sfida di questo tipo, come sono fatto io. Cioè, come la raccoglierebbe? Cioè, lei dice io continuo ad andare per la mia strada, poi volete far cadere delle amministrazioni su una motivazione di tipo politico e non amministrativo, allora bene, benissimo, confrontiamoci, andiamo di fronte ai veneti e vediamo cosa decidono. Cioè non avete nemmeno paura di andare alle elezioni? Ma che problema c'è? Io credo che gli elettori siano maturi da questo punto di vista e credo che un ricatto di questo tipo, perché messa così, cioè un ricattatore Berlusconi, sì, messo così diventerebbe un ricatto di fatto. Io credo che la gente sia abbastanza matura per trattare come tale e credo che Zaia, governatore più amato degli italiani dagli ultimi sondaggi, rivincerebbe a piene mani. Scusi un attimo, dunque voi se eventualmente Berlusconi avesse il potere di far cadere la giunta nel Veneto per questi motivi, sareste pronti ad andare a nuove elezioni? Però la cosa che le domando è questa: ma Berlusconi ha gli uomini per far cadere la giunta nel Veneto? Questo bisogna chiederlo ai colleghi del PDL. Io, conoscendo i miei colleghi con i quali ho un ottimo rapporto e c'è un bel rapporto qui in Veneto proprio di lavoro, non credo faranno una cosa del genere, perché non sono così stolti e sanno bene qual è la situazione, tanto più che Berlusconi non sta governando tutto il PDL, ma lei sa meglio di me che il PDL, insomma, appunto, qualche polentina al proprio interno ce l'ha, quindi non so chi di questi andrebbe veramente a casa in una situazione di questo. Cioè, di togliere la fiducia a Zaia e quindi andare a casa. Quindi comunque, se voleva minacciare la Lega, se voleva minacciare la Lega o Maroni per fare un accordo, eccetera, rispedite al mittente questo ricatto, quello che voi chiamate un ricatto, dicendo siamo pronti anche ad andare a votare in Veneto nel caso. Ma guarda, in Veneto sicuramente non abbiamo problemi, non so dalle altre parti, ma da questo punto di vista siamo tranquilli e sereni sul lavoro che stiamo facendo. Va però bene. Ripeto, guardate che per come conosco io e i miei colleghi del PDL qui in Regione Veneto, per il rapporto che ho fatto una cosa di questo tipo, neanche sotto indicazione di Berlusconi, tra l'altro bisognerebbe chiedere a loro quanti effettivamente ricevono ancora ordini da Berlusconi. Bene, grazie. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersaglio. Il ministro tedesco Schäuble, meglio Monti del suo predecessore per la cancellieri, possibile il voto il 17 febbraio, scende lo spread bene l'asta dei bot. Monti polemico con Berlusconi, più prudenza nei giudizi, interrompere le riforme è peggio che non farle, dice il Presidente del Consiglio. Berlusconi, se Monti è candidato di tutti i moderati, no, pronto a fare solo il capo della coalizione, ma non credo che il professore voglia diventare uomo di parte. Nel PD primarie per la scelta dei parlamentari si terranno il 29 e il 30 dicembre, aperta ai non iscritti. Bersani, vogliamo cambiare la politica. Espulsi da Grillo due consiglieri 5 Stelle, dissidenti Fave e Salzi, avevano denunciato la mancanza di democrazia nel movimento. Crollano le richieste di mutui per la casa, compravendita a picco, rate troppo care per le famiglie, sospetti di manipolazione dei tassi da parte delle banche. A Reggio Calabria, comune sciolto per mafia, migliaia di dipendenti tentano un'irruzione al municipio, chiedono il pagamento degli stipendi bloccati da mesi. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure pure lo spray. A ti zanzara mi son messo il piatto. Sei ancora a casa? Beh, caro Dell'Utri, dice Berlusconi: anche se le accuse della magistratura sono assolutamente infondate, mi spiace, ma non potrò candidare Dell'Utri. Sentiamolo, sentiamolo. Le accuse di questa magistratura a Dell'Utri sono assolutamente infondate. E gliene dico un'altra, guarda. Però non lo candida. No, no, no, è chiaro che non possiamo permetterci di farlo. E quindi ci spiace, perché ci spiace, ma non possiamo permetterci di farne. Non possiamo permetterci di candidare Dell'Utri. E come mai? Che ne so, per motivi di immagine, se uno vuole fare una lista nuova con tutte persone nuove e poi ci metti Dell'Utri, fai una figura barbina, guarda, una scelta che pagherà cara Berlusconi, vedrai. In che senso? Scatenerà Dell'Utri, dici? Beh, ma stai scherzando? No. Ma stai scherzando? Comunque la notizia più grave oggi, al di là di questo caso interessante dal punto di vista clinico di quello che sta avvenendo in questa conferenza stampa che verrà analizzata passo dopo passo, ma la notizia importante della giornata, sconvolgente della giornata, è la cacciata di Favia e della Salsi da parte del signor Grillo. Ma che sconvolgente? Siamo alla normalità più assoluta. Se tu non vuoi aderire alle regole di un certo movimento, vai fuori. Qual è il problema? Lo dici anche te, no? Lo dici anche te. Se ci sono delle regole, ci sono delle regole, tu sei contro queste regole? Vai fuori, ma non mi pare una cosa così strana. Scritte da un sovrano, scritte da un benissimo, ma era così anche prima, anche quando loro stavano tranquillamente nel Movimento 5 Stelle non dicevano nulla, non è cambiato. Era un'altra cosa. Ma che? Comunque, ma quando mai? A te piace il fatto che Favia e Salsi siano stati cacciati? A me non piace, a me le espulsioni in generale non piacciono. Dopodiché quel movimento lì, io faccio un'analisi scientifica. Una cosa molto brutta quella che è successa, ma oggi sarà pure una cosa bruttissima, brutta. Però la cosa fondamentale è questa: non è che ci fossero prima delle regole trasparenti, decideva tutto una persona, ma come il web, ma quale web? Decideva tutto una persona, tutti. E lo sapevano anche loro. Siccome adesso le cose non vanno per il verso giusto per quelle persone lì, che ovviamente non possono essere ricandidate, allora si agitano un po'. Questa cosa qui cambierà la storia di questo movimento, perché i grillini sono infinitamente migliori del signor Abbard Grillo. Sì, non esisterebbero però senza Abbard. Marco da Como, buonasera. Buonasera, ma di cosa parla il libro di Vespa? Ma che ne so, parla... Del 12 dicembre del 2012. No, crisi... da Mussolini a Beppe Grillo. Viene ogni anno... il palazzo e la piazza. Il palazzo e la piazza e Berlusconi che fa lo show. Vabbè, ma è quasi sempre così ogni anno, di che stiamo parlando? È incredibile comunque. No, ieri io ero già rimasto scioccato dalla sua iniziale frase che forse spostavano il Festival di Sanremo. Ed ero rimasto scioccato, ho detto basta nominare una persona che si sposta tutto, l'Italia si rivoluziona perché una persona torna in politica, basta, non ne possiamo più. Poi, a proposito della Mrs. Whiteflower, sì, che parlava della laurea in astrofisica della Merkel, diceva uno scandalo che non ha... Ma è uno scandalo la laureata in astrofisica? È uno scandalo un ammalato di puntini puntini? Malato di cosa? A capo di un governo. Di passera. Basta, tutte queste... susseguiose cose, no, veramente. Grazie, Marco da Como. Che era lui, no? Era lui, sì. Alfredo da Milano. Sì, buonasera, Cruciani. Buonasera, dica. Buonasera, Parenzo. Io vorrei dirvi, do una notizia in anteprima che non sa nessuno in Italia. Praticamente abbiamo tutti i politici senza palle. In che senso, scusi? Nessuno, vengo e mi spiego. Nessuno dei suoi intervistati, che lei mi è molto simpatico, mi fa ridere, ma tutte le volte che intervisto un politico mi avveleno perché nessuno ha le palle di dire sì, no. Allora, Bossi, questa sera è toccato a Canerre. Bossi, lei lo candiderebbe? Deve dire no, perché tutto quel giro, praticamente l'ho detto, non è che... No, sì, però l'altra volta anche Fiorito doveva dire sì, sono stato ladro, ho sbagliato e pagherò, basta, punto. È inutile girarci intorno. Cioè non abbiamo politici in Italia, la classe politica non ha le palle di dire Sì, cioè io sono un povero conducente di autobus, se sbaglio ne assumo le mie responsabilità, dico sì, ho sbagliato, ho investito ipoteticamente uno, ho passato col rosso, non lo so, qualunque cosa, mi assumo le mie responsabilità e pago. Ora loro, la nostra classe politica, tutti sì, di destra, di sinistra, dicendo, non sanno dire sì. No, ma lei ha perfettamente ragione, Alfredo. Anche quelli più giovani non, alla fine spesso sono troppo diplomatici. Pier Francesco da Pistoia, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Senta, io le volevo dire tanto innanzitutto che appoggio completamente la linea di Beppe Grillo, il fatto della funzione delle sì, due persone, perché quando uno è dentro un movimento, un'associazione, se non è d'accordo, cioè se tu accusi il tuo segretario, il tuo capo, se tu accusi il tuo capo, il tuo segretario di essere un dittatore, ma qual è il punto? Dovresti essere tu ad andare via, infatti, non farti espellere. Ma di che stiamo parlando? Su, la seconda cosa è il fatto che mi sembra, sarà un complotto, sarò io che vaneggio, però il fatto che vogliono, stanno anticipando le elezioni politiche, stanno spostando e ci vogliono le firme per il Movimento 5 Stelle per fare candidature per ma le troveranno le firme, non si preoccupi, le troveranno. Poi il ministro Cancellieri ha detto che mi sembra le firme possono anche essere dimezzate, se ci, cioè, è probabile che non si debbano proprio raccogliere quel numero di firme per presentare le liste. Sì, comunque sarà una massa talmente tanta di persone. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per me, quando tutto sembra poesia, la cruda verità. Le zanzare di casa mia mi adorano perché sono pazze del mio sorriso, mi adorano perché abbandono il mio corpo nudo. Parlando così con molta tranquillità e diciamo una certa forbitezza, ce li siamo levati finalmente dai coglioni. Sfiorare e ti farò male, zanzare di casa mia si sbronzano di me e festeggiano su. Questo era Borghezio, e vi ripeto che Berlusconi ha detto che se Monti si candida e tra i moderati ci deve essere anche la Lega, lui si fa da parte, la stessa Lega che usa queste parole nei confronti di Monti. Chiudo gli occhi, mi illudo di volare, ma voli solo tu da me. Parlando così con molta tranquillità e diciamo una certa forbitezza, ce li siamo levati finalmente dai coglioni. 800 24 00 24, alle ore 18 Berlusconi dice sono candidato premier, alle ore 18:30 passo indietro se Monti si candida, poi ancora pochi minuti fa Alfano sarebbe un buon candidato premier, e in mezzo se si candida Montezemolo, anzi se Montezemolo lo vuole, io sono pronto a fare un passo indietro, se me lo chiede un casino. Forse ha ragione Mentana quando dice che i sondaggi da quando ha deciso di ricandidarsi sono così così e non sa che fare, non sa che pesci prendere, dunque offre candidature a tutti per i cosiddetti moderati, in cui dovrebbe starci anche la Lega di Borghezio del ce li siamo levati dei coglioni, la Lega che dice attraverso Bossi che Monti deve sparire dalla faccia della terra e Monti si dovrebbe mettere a capo di una lista o comunque di una coalizione di moderati con dentro pure la Lega, ma siamo veramente no agli infermieri, a peggio Se lo incontrasse per strada cosa farebbe lei, Borghezio? Ma mi toccherei i coglioni, perché sono convinto che porti anche un po' Maluccio e quindi l'aria funebre ce l'ha, bene non ha portato Questo sempre di Monti, Borghezio, Le zanzare di casa mia. Siamo qui 800 24 00 24, Hermes, provincia di Firenze. Hermes. Alessandro da Pisa. Pronto? Dica. Alessandro, sono il telefono da Pisa. Sì, questo l'ho detto. Sì, io ho capito male. Niente, volevo esprimere un po' la mia opinione su quello che sta avvenendo in questi giorni, no? Sì. Su Berlusconi. Berlusconi e tutto quanto il cancan che viene fatto su di lui. Ora io, voi vi piacete, tutto sommato, la vostra trasmissione l'ascolto tutti i giorni. E allora? Capisco il vostro ruolo, che è il ruolo di creare sempre con l'ironia del casino, perché abbiate pazienza, ma se a destra, la destra non c'è più in Italia, grazie a Fini, no? Perché non c'è più. Berlusconi non è un uomo di destra, era a destra della sinistra, perché era dall'altra parte, ma non è un uomo di destra Berlusconi. E una parvenza di destra in Italia la può fare solo Berlusconi. Chi è che può fare la destra in Italia? Sperace? La può fare un Gasparri? La può fare la Russa? È chiaro che tutto il vostro, l'apparato di sinistra o filo di sinistro che c'è in Italia pompa contro Berlusconi, perché togliendo Berlusconi ci hanno, hanno il campo libero come in Toscana. Non ho capito niente, Alessandro, non si è capito niente, scusi, non si è capito nulla. Non si può fare nulla se non sei di sinistra. Se vuoi giocare a calcetto devi essere iscritto a Luis. Non esageri, su. Hanno un potere immenso, lo spazio in tutta la Toscana. E lo farebbero in Italia. E Berlusconi è pericoloso per quello. E io facevo il cameriere tanti anni fa. Ho lavorato nei migliori alberghi d'Europa. Sui nostri politici di allora, su tanti ben pensanti di allora, potrei scrivere un libro. Davide, ci pensi? Stiamo arrivando. I fatti moralisti, i fatti benvenisti, sì? Io ho conosciuto il mafioso nella stampa, specialmente noi ragioniamo, faccia, faccia un agente, come si chiama questo? Siete, Alessandro, dico voi per carità, siete tutti Alessandro, Alessandro? Quindi, io non andrò più a votare. Niente, va a ruota libera. Fabrizio da Roma intanto, Fabrizio da Roma, buonasera. Si metta seduto un attimo che adesso arriviamo. Dica, ma si metta dica. Seduto, però. Sì. Posso? Aspetti, che sta continuando? Va? No, no. Fabrizio, vado io? Sì, vada, vada. Sì, niente, no. Dicevo, proprio poco prima avete messo la borsa, no? Sì. Mediaset più 6%. Sì. Avete visto in questi ultimi 5 giorni, una settimana, l'indice di borsa come è variato bruscamente? E allora? Secondo voi Berlusconi si ricandida? Secondo me no. Lui è un gran furbacchione, ha un sacco di soldi, con le sue dichiarazioni smuove gli indici di borsa, lo spread, chiamiamolo così, e lui guadagna un sacco di milioni di euro. Bah, non credo che ci sia un intento speculativo personale di Berlusconi. Io lo farei. Va bene, grazie Fabrizio. Gabriele da Brescia, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Volevo intervenire per quanto riguarda la Salsi e l'altro Fabia, insomma, espulsi dal movimento. Secondo me è proprio una stupidaggine quella che sta facendo Grillo, nel senso che ci sono state delle elezioni all'interno del movimento, li hanno riconfermati, sta diventando esattamente come tutti gli altri, anzi non so cosa si aspetti dal futuro, perché in futuro saranno sempre di più le voci dissidenti e il rischio di voler mettere insieme tutta quanta la società civile, per cui è assolutamente una stronzata quella che sta facendo. Complimenti a Parenzo, che l'aveva già detto prima. No, ma è sbagliato, bravo, avete ragione, è acuto questo ascoltatore, non si può parlare di cioè il dissidente è Grillo, non i ragazzi. Sì. Cioè i ragazzi vogliono semplicemente un movimento in cui davvero una testa, un voto, una testa, una decisione. E non cosa vorrebbero, scusa? Non ho capito bene cosa vorrebbero, puoi ripetere un attimo che se hai capito male. Era molto bello, molto radicale, una testa, un voto, una testa, una decisione. Ma forse non hai capito bene, questo movimento del 5 Stelle, senza Grillo e Casaleggio, sarebbero niente, sarebbe nulla, il nulla, zero, polvere, zero. Ma non guardi in faccia la realtà, ma chi li conosce questi qua? Se non ci fosse Grillo, Salsi e Favia sarebbero niente. Grillo ha avuto un'intuizione e ha fatto una cosa alla quale bisogna dargli atto. Nella quale bisogna dagli altri, che è questo movimento, raggruppando giovani bravi di spirito, volontarosi. Vabbè, smettila di dire queste cose scontate. Questi ragazzi, Salsi e i tanti altri che vedrai. Ma cos'è che contestano? Io non ho capito che cos'è che contestano. Non si è capito ancora. Io ti giuro, non l'ho capito che cosa contestano. Ti giuro, non l'ho capito. Il fatto che tu non l'abbia capito non l'ha capito nessuno. Ogni volta che vedi un satrapo, ma non lo ha capito nessuno che cosa contestano. non lo sanno spiegare nemmeno loro. Dunque, le frasi, che cosa? La presenza nei talk show? Benissimo. Grillo ha deciso che nei talk show gli aderenti al suo movimento non ci vanno. Se tu vai in un talk show, sei fuori. Non è come essere fuori dalla democrazia. Non l'ha prescritto il dottore di essere iscritto al Movimento 5 Stelle, l'hai capito o no? Che non l'ha prescritto il dottore. Non scrivono insieme un cazzo. Non è una persona che mi butta fuori, perché non sei tu il padrone di quello, ma sono i cittadini che hanno votato. Ma quali cittadini? Persone. Moreno dalla provincia di Bologna, tanto non capisci, per cui Moreno dalla provincia di Bologna. Moreno dalla provincia di Bologna, non c'è. Stefano da Roma. Eccomi. Vada. Mamma mia. Vada? Sì, vado. Solo una cosa. Ce n'è inconcepibile Berlusconi. Inconcepibile. Io farei solamente una cosa. Sì. Farei un passo indietro. Sì. Prenderei la rincorsa. Direi un calcio dove si sente meglio. Ma non ho capito, a chi lo darebbe il calcio? Non ho capito. A chi dare il calcio? Non ho capito chi è che deve dare il calcio a chi. Io a lui. Sì, vabbè, darebbe un calcio a Berlusconi lei, ho capito. No, un calcio dove si sente meglio. È possibile mai che quest'uomo... Ma lei è sobrio? Ma cosa succede a questo punto? Sì, sono sobrio, molto sobrio. Lei è sobrio, sì, sicuro, sì. No, a parte gli scherzi. Ma scusi, ma lei appena dato dell'ubriaco a Berlusconi, mi sa che un problema ce l'ha lei, perché... Che cosa ha dato? Vediamo se riesce ad esprimere un concetto. Sì, no, stavo scherzando. Il punto è che Berlusconi un mese fa ha detto non mi candido. Ieri sì. Ha detto mi ricandido. Sì. E oggi ha detto faccio un passo indietro. Se Monti si candida, sì. Esatto, quindi... Però in realtà poi ha detto anche che non esclude Alfano candidato premier, a un certo punto ha detto per il momento resto candidato. Sì. Una serie di cose. Ho capito, però in tutto questo arco di tempo ha creato casini assurdi. Vabbè, allora? E allora io sono elettore di centrodestra. Sì. Ma ancora con Berlusconi stiamo? E da Strasburgo un grande ritorno alla Zanzara, grande Iva Zanicchi. Ciao Iva, come stai? Ciao, bene, non nevica più, sto bene. Ah, non nevica perché? Quando è che nevica? È una città in festa, piena di luci, sente molto il Natale. I mercatini di Natale, no? Noi dobbiamo essere tutti più buoni, ricordatelo, Dici? Almeno a Natale, dai. Ma no, qui bisogna essere sempre cattivi, ricordati. No, io mi sento buonissima. Ti senti molto buona? Sì. Ma Berlusconi, secondo te, alla fine è buono oppure un po' cattivello? No, Berlusconi è una persona molto buona. Molto buona, Sì, per forza. Io ho sempre detto, tu lo sai. Sì, lo anche so, dopo lo so. Dobbiamo parlare di altre cose, no? Di che dobbiamo però parlare? Però voglio dire una cosa sola e poi non ne parlo più. Sì? Di tutte queste polemiche di questi giorni. Di che? Io sono assolutamente con Antonio Tajani. Ma che c'entra Tajani? Che ha fatto Tajani? Perché? Che ha fatto Tajani? Nel senso che io sono con Berlusconi, con tutte queste polemiche, con tu lo sai cosa è successo in questi giorni? Con Mario Mauro, eccetera. Ma sai, con Mauro. Ma sono esternazioni, non sono... Va bene, guarda, hanno scritto che il PDL qui si è diviso. Un po' si è diviso. Ma guarda, io non voglio entrare... non voglio entrare più che tanto in questa storia abbastanza sgradevole. Noi abbiamo il nostro leader è Berlusconi. È? Questa sera ha fatto delle dichiarazioni, ha detto che non si è capito niente, Iva. Perché Monti riesce, va bene, lui si può anche tirare indietro e andremo con Monti, che Monti è una persona che io sempre ma Monti non ha nessuna intenzione di andare col PDL né con la Lega. Sì. Monti. Ma non lo so. Ma come non lo sai? Ma dove l'avete visto? Ma è una cosa assurda, inconcepibile. Berlusconi e Monti non ha nessuna idea di mettersi a capo di un cosiddetto fronte dei moderati con Berlusconi, la Lega. È una cosa che non ma sta in cielo. Con la Lega posso anche capire, beh... ma perché no? Con il centrodestra senza la Lega magari, o no? Ma assolutamente. Ma che dove l'avete visto sto film? Ma poi scusa, non ti aveva scocciato Berlusconi? Non ti aveva deluso a te Berlusconi? Ce l'avevi detto anche a guarda noi. Che lui ma personalmente, io personalmente posso anche essere un po' adirata con lui. Ma sei molto adirata, sei molto adirata. Arrabbiata, anche arrabbiata. D'altro canto io lo capisco, lo comprendo a tantissime cose. Io... ma sai, da quanto tempo è che non, che non vi parlate? Tu lo sai, fammi parlare che non sento niente, che c'è un telefono qui. Da quanto tempo è che non vi parlate? Da quanto tempo non vi parlate? Con Berlusconi, ma sarà un anno, io l'ho detto, non vorrei fare la figura di Mike Buongiorno, sai che sarà messo a piangere al telefono. Io l'ho cercato per quello che sono offeso, io non l'ho mai cercato Berlusconi, perché so tutto da fare che ha le persone, che lo stiracchiano, io l'ho cercato quest'estate, forse era un momento infelice, era Ferragosto in Sardegna, aveva la famiglia e forse ho sbagliato, non mi ha risposto. Poi invece l'ho chiamato ad Arcole perché avevo bisogno di sentirlo, avevo bisogno di parlargli e lui non mi ha risposto, non mi ha richiamato. Ma va bene, non è che... La cosa però ti è dispiaciuto contro il mio presidente, pazienza. Però ti è dispiaciuto parecchio, No, mi è dispiaciuto, non è da lui, perché io lo conosco da 25 anni che lavoro con lui. Non è mai successo. Beh, allora diglielo attraverso Radio 24. Mi arrivo un po' offeso, ma sono sciocchezze, sono cose personali per cui uno dice chi se ne frega. Però diglielo. Io non posso rinnegare il PDL, quello che è lui e quello che ha fatto e quello che vorrebbe ancora fare. Sai cos'è che a me dà fastidio? Che ti dà fastidio? Mi danno fastidio gli attacchi sconsiderati. Allora io Mario Mauro, per esempio, Mario Mauro, non lo vedi un po'? Attaccano e più mi attacco di nuovo a lui. Perché è inconcepibile, anche Schulz, il nostro presidente, che io lo stavo rivalutando, sai come è po' famoso, lo stavo rivalutando, ha fatto delle dichiarazioni ignobili, e qui bisogna anche avere il coraggio di dire queste cose. Cioè più lo attaccano, ha fatto due righe, no, subito devi mandare a quel paese. Non si può permettere di offendere, comunque un leader di un partito italiano, io qui... a ogni tiro di campana offendono l'Italia, comunque, a sinistra, a destra... Altro che capò, dici, no? Altro che capò. Vabbè, dai, no, veramente, io delusissima da Schulz, perché si stava comportando bene. Peggio di ma un capò. Ma chi gliel'ha fatto fare? Ma chi gliel'ha chiesto? Peggio di un capò. Ma chi? Dimmi la verità, peggio si è comportato peggio di un capò. Ma sì, sicuramente. Comunque, ragazzi, allora... Anche Mario Mauro... Scusami, viva, però non ti capisco. Ma anche Mario Mauro ha sbagliato quando ha detto che Berlusconi è un leader inadeguato ormai? Guarda, Mario Mauro, lui personalmente, e questo gliel'abbiamo detto, personalmente può pensare qualsiasi cosa. Poteva dire anche di peggio, va giustamente a cena con gli amici, ma essendo capo delegazione, dirlo in conferenza stampa con Doll... lì certamente ha un peso grande, io non l'avrei fatto, io non l'avrei detto, non sono d'accordo. Però ormai Berlusconi, Iva, ormai Berlusconi sembra una mummia, come scrive Liberation, sembra una mummia, trasfigurato in faccia, cioè, ma sembra una maschera, su. Ferocemente contro una persona, ma perché? Anche andare sul fatto personale, sull'aspetto fisico, guarda che veramente è una cosa... Ma Dio mio, adesso domani Berlusconi verrà a Bruxelles, andrà a Bruxelles, tu sai che al PPE parlerà, discuterà. Io non credo, perché io l'ho sentito tantissime volte parlare dell'Europa, io non ci credo che Berlusconi sia anti-Europa, tu lo sai meglio di me, avrà criticato. Ma tu ci credi ancora a Berlusconi candidato, sì o no? Ci credi ancora a Berlusconi candidato, sì o no? Ma io guarda, per il bene suo, forse sono stata fraintesa, quando io ho detto, se io fossi in Berlusconi, davvero, a questo punto, visto l'atmosfera, un'atmosfera tremenda che c'è, io davvero mi sarei, quantomeno, non dico ritirato dal partito, sarei rimasto, ma io mi sarei occupato un po' più dei affari, delle mie aziende. Ti ricordi che l'ho detto del Milan? Questo io gliel'ho detto, ma perché gli voglio bene in fondo, davvero? E dunque, secondo te adesso dovrebbe ritirarsi? È meglio che andare ai Caraibi? No, ma a questo punto, no, io l'ho detto mesi fa. E adesso? A questo punto, lui è il nostro presidente, lui non ha ancora detto... Io la giravolta della Zanicchi, dai, la giravolta, un'altra, l'ennesima giravolta pure di Iva, dai, Iva, no, pure... No, ma io non giravolto di niente, perché io quando sento questi attacchi così sconsiderati, ma a me piace il cuore, perché io non sono così, sono delle vigliaccate, sono delle cose volgari, ma davvero, dai... Santi Dio, poi dopo è libero lui di fare ciò che vuole. Io ho detto, io lo consiglierei ho capito, ma oggi in Europa è però più prestigioso. È una persona che può fare quello che vuole, insomma, o no? Ma sì, ma certo, può fare quello che vuole, su questo non c'è dubbio. Io ho tanti amici, guarda, veramente, a sinistra, ma la sinistra dovrebbe essere solo te contenta, perché in campagna elettorale non avrebbero niente da dire, perché gli italiani non ci cascano più. Senti un attimo una cosa, ma hai visto che lui salverà l'Italia, che farà sì. E invece lui attaccherà ancora Berlusconi, attaccheranno tutti Berlusconi, e la campagna elettorale sarà a pro o contro Berlusconi. Paese. Vabbè, Iva, voglio chiederti una cosa, ma hai visto che Berlusconi sembra che si sia fidanzato? È caduta, che ha fatto? Vabbè. Pronto? Eccoci, ma che è successo? È entrata una tedesca che ha detto delle cose tremende. L'hai sentita? Sì, come no. Cos'è che diceva? Ma delle cose contro Berlusconi, sai, in questo momento i tedeschi le dicono di tutti i colori. No, che mi dice piantala di urlare che disturbo il vicino. Anche Schäuble oggi, il ministro tedesco, ha detto che è meglio il governo Monti di quello di Berlusconi, ma anche tu eri più a capo, ma lo dicono tutti, io più torno hai capito, io no, ma cavolo, scusami, cioè più attaccano Berlusconi e più tu torni con Berlusconi, sicuro. Lo stavo lasciando, adesso ci torno. Ma non volevi andare con Montezemolo? Ma non dovevamo parlare di Sanremo? Adesso parliamo di Sanremo. Adesso. Ma spostare Sanremo per le elezioni, ti rendi conto o no? Guarda, io non lo farei. Io lascerei le... Io non so adesso se il test magari finisce sabato sera e alla domenica ci sono, andiamo a votare. Oddio, non è proprio il massimo. Ma no, ma che non è il massimo? Ma che c'entra? Ma qual è il problema? Ma non c'è nessun problema, dai, va su. Qual è il problema di Sanremo? Scusa. Ma per chiunque, voglio dire, sia che si parli male di Berlusconi, che anzi questo gli farà gioco. Più, guarda, ma te lo giuro. Ma la Littizzetto ti è piaciuta? La Littizzetto che ha detto... Tu sai che la Littizzetto è la mia comica, la mia attrice preferita, io l'adoro, è simpatica, è spiritosa. E allora? Delle cose mostruose che spesso dico anch'io. Se io avessi detto... Scusa, posso dirlo? Sì. Se io avessi detto... Bersani mi sta sul cazzo. E siamo qui alle 8 in punto, la Zanzara 800240024 con Berlusconi che ha detto che Dell'Utri non potrà essere in lista, ci dispiace, con Berlusconi che ha detto passo indietro, forse no, ha candidato Monti ma anche Alfano, ma insomma, cara Zanicchi, dal Parlamento Europeo è un casino tremendo, pure Berlusconi ha le idee confuse, lei lo conosce da tanto tempo, no, l'ha mai visto così confuso? Apparentemente confuse. Ma come apparentemente confuso? Tutto, ma che sarà tutto molto semplice. Io sono una zingara, lo so. Ma che ha capito lei? Ma cosa ha capito lei? Cosa ha capito di questo casino di oggi di Berlusconi? Che ha detto un sacco di cose, che candida Monti, ha candidato Alfano. No, lui ha detto una cosa ben precisa. Ma che ha detto? Che Monti ci sta, lui è disposto anche a fare un passo indietro e Monti diventa lui a capo di tutto il centrodestra. Ma se gli ha tolto la fiducia due giorni fa. Ma si è detto che ha portato lì. Ma dai, che tanto tra un mese era cadeva, il governo era finito. Ma si è detto che ha portato l'Italia al disastro. Anche certe idee che perché il Consiglio Monti ha portato avanti, perché nessuno nega, io sono un'ammiratrice di Monti, però ma dire, momento, aspettiamo. Ma vabbè, lasciamo perdere la politica, Iva, ma non è la ruota della fortuna questa qui, ok, il prezzo è giusto, è politica. Questo qui non può far cadere due giorni fa il provvedimento, l'epoca Monti è finita, hanno tuonato Cicchitto e Gasparri alla Camera e al Senato, ma e adesso lo ricambia. Perché mi fai incazzare? Perché? Hai sentito cosa ha detto Berlusconi? Che ha detto? Che lui non ricandiderà più nessuno, soltanto il 10%. Sì, poi in realtà... Speriamo che mantenga questo. Si è corretto, si è corretto. Rinnoviamo. Senti Iva, ma io voglio capire una cosa, ma la Littizzetto ha sbagliato a dire che Berlusconi ha rotto il cazzo, sì o no? Ma sai, la Littizzetto, il nome della satira si può dire qualsiasi, le fa giusta. Oh, dunque ha fatto bene. So qualcosa io, lasciamo perdere. Appunto. Lei lo può anche dire perché lo dice in modo simpatico, carino, però io vorrei vedere trattare così qualche altro leader, come sarebbero insorti i giornali, l'opinione pubblica, i mass media. Berlusconi ci può dire ciò che si vuole. Però dillo anche te, ha rotto il cazzo pure Berlusconi. Dillo anche te, Berlusconi. Ascolta, Berlusconi dice: non mi candido se Monti guida i moderati. Ha detto questo. Ma Monti non si vuole candidare, è un trucco. Ma io non ci credo che sia un trucco, lui lo fa. speriamo che Monti questa notte dorma bene e che domani si svegli con certe idee. Ragazzi, volevo dire una cosa, dato che non ci sentiremo noi prima di Natale. No, però scusami un attimo, Iva, io voglio capire una cosa, ma come mai queste due ragazze, la signora Ronzulli e la signora Matera, due ragazze del Parlamento Europeo, sono così, come dire, pronte a fare tutti questi comunicati a favore di Berlusconi? La stupisce questa cosa? Io non so se hanno fatto dei comunicati. Sì, a favore di Berlusconi contro Mario Mauro. Ah, tu dici non sono in grado di... Assolutamente no, perché noi siamo un partito, sì, siamo liberi di dire e di fare ciò che vogliamo, per cui esternare come si vuole, poi ognuno si piglia le proprie responsabilità e va bene, e loro fanno i comunicati, io non... Va bene, non mi far parlare Dell'Utri, non voglio fare nessun nome. Dell'Utri ha detto, no? Dell'Utri ha detto che Alfano non ha le palle, sei d'accordo? Ha detto così? Sì. Non ci credo. Sì, come no? Ma no, ma perché lì c'è stato una hanno litigato, no? Ma ha le palle secondo te Alfano oppure in realtà non ce l'ha? Io te l'ho già detto che ce le ha le palle. Ce l'ha, E ti ho detto che c'è anche il quid, l'ho già detto. Il quid, dici? Bah. Sì, ce l'ha. Non mi far dire quello che ho detto l'altra volta, che poi perché il tizzetto può dire cazzo tutto quello che vuole. Io se dico che lui c'ha il quid lungo, subito pensano a qualcos'altro. Io, lui qui ce l'ha. È un ragazzo preparato, vabbè, un ragazzo sul quale Berlusconi ha puntato e anche se ha detto delle cose, ma sono sicuro che invece lo stima. Bah. Vabbè, cara Iva, ciao. Vabbè, pace bene, ascolta. Che succede? Posso dire una cosa? Che mi vuoi dire? Io direi, Sanremo io non lo sposterei. Perché sicuramente durante il festival che faremo sotto le elezioni, la Littizzetto, giustamente, ma tutti, no? Perché sono tutte persone simpaticissime, ma tutti rigorosamente di sinistra, si scaglieranno contro Berlusconi se sarà lui il nostro candidato. E questo non ci fa che bene. Ah, questo dici meglio? Rischiamo di rivincere le elezioni, lasciateli dire, lasciateli fare. Beh, questo non qua è il festival di Sanremo. Dice, più Littizzetto e più Fabio Fazio a Sanremo, più c'è possibilità di vincere. Ciao, grazie. No, ciao. Un saluto, voglio solidarietà all'ospedale San Raffaele di Roma. Ma quello che c'entra sa fare? Ma quello e alle famiglie dei bambini che purtroppo forse c'è il pericolo che l'ospedale chiuda. Buon Natale ciao. A tutti, ciao. Ciao, ciao. Ciao. La zanzara è quell'odioso insetto. Francesco, provincia di Treviso. Buonasera. Vada. Buonasera dottor Cruciani e dottor Parento, grazie anche per l'opportunità che mi date. Guardi, io cerco di portare un mio piccolo modesto contributo. Ecco, io credo di essere, senza vanità chiaramente, l'archetipo del moderato italiano. Non ho capito, scusi, lei l'archetipo del moderato italiano? Guardi, le dico, io ho 43 anni, abito in una regione in cui un tempo la Democrazia Cristiana, la Balena Bianca, faceva man bassa. Io ero democristiano all'inizio, quando ho cominciato a votare, poi quando, ripeto, nel 94 nacque Forza Italia e Berlusconi entrò in politica, io vidi quali, diciamo così, la casa naturale per quanto mi riguarda. Vabbè, questo qua però adesso... dei moderati. Vabbè, adesso non è che ci deve fare, come dire, la cronistoria delle sue simpatie politiche. No, guardi, io le dico, perché vi dico questo? Perché sono libero professionista, per cui sembro il classico soggetto apposta per... Ecco, la cosa che io trovo veramente assurda, diciamo cosa sta assurdo, dove siamo arrivati come partito di centrodestra, parlo del Popolo Libertà, perché io ripeto, ho votato Forza Italia, Popolo Libertà, ma oggi onestamente abbiamo toccato il fondo, mi perdoni. La cosa che proprio riesco, non trovo difficile ad accettare è, uno, il segretario del Popolo della Libertà non è stato eletto, è stato indicato, stato unto dal Signore, cioè da Berlusconi. Due, addirittura quello che sembra la maggiore sostenitrice di Berlusconi è Daniela Santanchè, mi perdoni, Daniela Santanchè non appartiene al partito del popolo dei moderati, è sempre stata un'estremista di destra, xenofoba. Io non riesco a capire onestamente che cosa c'entri, c'entri col coso. Infine, terzo, mi perdoni, da ultimo è questo. Ma perdono, non si preoccupi. Guardi, ma stiamo diventando un partito geriatrico. Geriatrico. Noi ci confrontiamo a livello internazionale, nei consessi internazionali. Ma questo è un comizio? Cos'è questo qua? Mi perdoni. Ma no, la perdono, è già perdonato lei, non si preoccupi. Sì, con gente che ha 50 anni, ok, e noi ci presentiamo con un candidato a governare un paese a 75 anni, ricostruito esteticamente, guardi, che è quasi inguardabile. A me viene in mente i programmi bisturi, e poi, se posso dirla tutte, i maggiori sostenitori, Daniela Santanchè. Vabbè, adesso però, scusi, Antonio, io mi domando, adesso le do l'estrema unzione, però, Antonio, l'ho già perdonata, però oltre al perdono le do pure l'estrema unzione. Orazio da Ferrara, buonasera. Sì, buonasera Crociani. Dica. Buonasera Parenzo, ascolti. Buonasera. Volevo dare il mio piccolo contributo alla soluzione ai nostri problemi in Italia. E lo dia il suo piccolo contributo. Invece di candidare Berlusconi, Monti, Bersani, tutta sta gente che ormai sappiamo come funziona, candidiamo la Merkel. Anzi, facciamo di più. Mettiamoci il governo tedesco a Montecitorio, a Palazzo Chigi, così il problema è risolto. 500 milioni in meno di elezioni. Basta questi casini e diventiamo floridi come la Germania. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Giustamente scrive Fabrizio Rondolino su Twitter che Berlusconi, che scarica dell'Utri, paga ad Alfano un prezzo eccessivo, perché è evidente che c'è stata una cessione, c'è stata una trattativa, se vogliamo anche un colloquio piuttosto serrato tra i due, e su Dell'Utri Berlusconi ha ceduto, anche perché gli interessa cedere su Dell'Utri. Ma è chissà perché ha pagato. No, Dell'Utri tra l'altro ha detto di non avere, aveva deciso di non candidarsi, l'aveva detto a Berlusconi, e poi aveva deciso invece di ricandidarsi, come ha detto a noi, però non ha fatto in tempo a comunicarlo a Berlusconi. Adesso c'è bisogno di un chiarimento, dice. Però ha pagato solo lui. Vedremo. Fabio d'Alessandria. Tutti gli altri. Vedremo. Verdini. Vedremo. Fabio d'Alessandria. Buonasera. Io approfitto di voi e vi ringrazio per semplicemente fare questa considerazione. Nell'intervento di Berlusconi si è fatto riferimento a un fatto ben preciso, di cui Berlusconi ha detto di avere anche documentazione. Due anni fa le autorità tedesche avrebbero ordinato all'unisono a tutte le banche di vendere in un'unica soluzione, quindi in una contemporaneità. È la tesi Brunetta. Però lui dice che c'è un documento che dimostra che una banca italiana che rifiutò e che operava sul territorio tedesco fu minacciata della revoca delle licenze. Se questo fatto fosse vero, questo è un atto di guerra finanziaria. E per questo allora si spiegherebbe perché la Germania ha tutta questa attenzione a intromettersi nella politica interna italiana. Hanno forse paura che qualche altarino venga scoperto, perché i tedeschi gratta gratta sono sempre quelli che sono, a quanto pare. Guardi Fabio, io non sono tanto complottista da questo punto di vista. Certo che ci siano state anche manovre finanziarie speculative in quel frangente, soprattutto un anno fa, non c'è dubbio. Che poi noi non siamo stati in grado, non eravamo in grado all'epoca di fare riforme incisive. Ricordo che la Lega si opponeva alla riforma delle pensioni, eccetera, eccetera. Questo è un altro fatto. Grazie. Silvano da Bergamo, buonasera. Pronto? Dica. Buonasera. Berlusconi ha detto: amo il mio paese. Un attimo solo, sentiamo Federica Salzi a Sky TG24. Fondamentalmente aderiscono ad un prodotto, non che vogliono costruirlo, quindi... Si sente poco? Silvano, allora dica. Lui ha detto: amo il mio paese. Sì. Adesso si è ricandidato e per ottenere una vittoria si avvicina alla Lega e offre in pratica a Maroni la presidente della Lombardia. Sì. Con questo il blocco chiamato macro regioni, la Lega vorrebbe portarselo via e lui regalerebbe alla Lega il... Vabbè Silvano, dove vuole arrivare lei? Non ho capito. Vuole arrivare a dire che lui non ama il suo paese. Chi? Berlusconi non ama il suo paese. Vabbè. Perché lui è disposto a dare alla Lega l'Italia del Nord. Ma l'Italia del Nord, vuole dare alla Lega, diciamo, la candidatura di Maroni, poi mica è sicuro che Maroni venga eletto, ci vogliono sempre i voti dei cittadini, non è che ci vuole, non è che c'è la benedizione di Berlusconi e basta, cioè, però Maroni, c'è un candidato Ambrosoli che può vincere, c'è Albertini probabilmente, cioè, per cui, d'accordo, però l'orientamento dei leghisti, che hanno solo il potere amministrativo, è quello di arrivare a portar via il nord e attaccarlo a una baviera. Vabbè, d'accordo, sarà quello. Ognuno può sognare anche di come dice Parenzo, di diventare papa, diciamo, no? Cioè, beh, quello. Si può anche sognare di diventare, come dire, pontefici. Sì, uno vuole strappare il nord, fare la macro regione o quello che vuole, va benissimo. In questo metto in dubbio l'italianità di Berlusconi. Sì, vabbè. Ivan da Firenze, buonasera, l'italianità di Berlusconi. Buonasera. Ivan da Firenze, dica. Buonasera. Lo so, Cruciani e Parenzo, che vi dà fastidio quando mi fanno i complimenti, però ve li devo fare perché ci tenete, sì. Io viaggio molto e ci tenete compagnia. Grazie, grazie. Dica. Quindi, grazie. Bene. Allora, volevo dire una cosa, non è uno stimolo intellettuale originalissimo, perché ci furono altri che lo dissero, però io propongo veramente di arrenderci all'Europa, perché cioè? brevemente quello, cioè, meglio che vediamo, essere governati dall'Europa che dai nostri cialtroni? No, noi potremmo fare un gesto di resa quasi prono, cioè andare con i passaporti in mano e le mani alzate, arrendendoci proprio all'ONU e all'Europa in generale, e a dirgli: guardate, vogliamo i giudici inglesi, vogliamo la polizia tedesca, vi dicendo, però così facendo saremmo sì. in avanti come siamo sempre stati. Però scusi Ivan, le posso dire anche un altro motivo per cui secondo me lei ha ragione. Non so se qualcuno di voi oggi ha letto una pagina o due pagine del quotidiano La Stampa dedicate ai alcuni sprechi di consiglieri regionali in Piemonte, consiglieri regionali che hanno un monogruppo, cioè hanno un partito che forma un gruppo regionale in Piemonte, appoggiano tutti, a parte alcuni, Cota, il presidente leghista del Piemonte. Allora, tra queste spese contestate, siamo a livello di contestazioni, ci sono, sentite bene, 7.800 euro di abiti e profumi pagati con i soldi nostri, 920 euro di centri estetici, 700 euro per due biglietti della Juventus allo stadio, anzi 700 euro di spettacoli, tra cui due biglietti della Juventus allo stadio, spese nostre, 16.000 per nightclub, bar e ristoranti, 51 euro per un bar alla Gran Canaria, non dico nemmeno i nomi, poi li diremo, e poi qualcuno avrebbe comprato con 4.000 euro di soldi nostri un tagliaerba, una sega circolare, tu manca hai letto queste cose, un tagliaerba, una sega come circolare no? E un frigorifero. Un altro avrebbe speso 15.000 euro di benzina, un altro ancora 500 euro di solarium e parrucchiere, 20.000 euro di treni, eccetera, eccetera. Altro che mannaia dell'Europa, di più ci vorrebbe. Francesco da Varese, buonasera, 800 24 00 24, viviamo e lottiamo insieme a voi, anche se il 21 dicembre andiamo in vacanza, caro Parenzo, andiamo in vacanza. Ma non ci sono i Maya poi? No, noi il 21, quando c'è la fine del mondo, i Maya eccetera, anche noi andiamo in vacanza, chissà e se torniamo. La zanzara finisce con i Maya, con la, come, beh, quello finisce, che finisce è una parola grossa adesso. I Maya hanno detto che è finita con la zanzara. Dici, i Maya hanno detto che la zanzara finisce il 21 dicembre? No, cioè quella data lì è stata calcolata sulla base del fatto che il 21 andiamo in vacanza, e quindi lì hanno legato questo alla senso. Profezia dei Maya, dei signori, forse Borghese si occupa anche di Maya. Francesco da Varese. Buonasera. Dica. Volevo avere la vostra opinione su due cose. Sì. La prima, ho sentito adesso Ivo Zanicchi, in persona simpaticissima, in televisione, ha fatto grandi cose eccetera, ma non vi sembra sì. che a Strasburgo dovremmo avere altre persone? E vabbè, ma c'è un po' questa di tutto questo, su. Questo è il primo tema, in no? teoria dovremmo, anche le persone forse, di spettacolo possono fare politica, dai, no, su no, Francesco, ma non perché una persona di spettacolo non possa fare politica, è che noi, io penso che dovremmo alzare un po' il livello per cercare di ottenere magari, guardi, di per quello per meglio, sì. presidiare meglio, voglio dire, in questo caso Strasburgo, quindi il Parlamento Europeo, piuttosto che per me, il Parlamento Europeo andrebbe abolito, figuriamoci un po'. No, ma dico, visto che c'è, però voglio dire, presidiamolo meglio. La seconda cosa, sempre una vostra opinione, ma non vi sembra che con il governo Monti sì. abbiamo perso un'occasione, il cosiddetto governo tecnico? Sì. Di effettivamente incidere pesantemente, non dovendo poi teoricamente rendere conto a nessuno in future elezioni, incidere in maniera più pesante su quelle che sono molte cose sulle quali non è stato fatto nulla, oppure si è fatto chiedendo sempre la maggioranza, cioè se è tecnico, è tecnico, bisogna intervenire e fare una volta per tutte. Ah, guardi, per me il governo non deve rendere conto a nessuno. Guardi Francesco, io sono d'accordo con lei. Il governo tecnico nei primi sei mesi doveva fare tutto quello che bisognava fare e poi andare a casa. Fare tutto con decreti legge, decretazione d'urgenza, appunto, quello che è possibile fare. Sei mesi bisognava fare tutto e poi andare a casa. In Italia, come al solito, le cose vanno per le lunghe. E dell'Utri, dopo le parole dette qui alla Zanzara, sono perseguitato, mi ricandiderò, e il no di Berlusconi, non candido dell'Utri, ci dispiace ma non possiamo candidarlo anche se le accuse sono false, dice adesso bisogna chiarire. Ma vi rendete conto o no di quello che succede, cari ascoltatori della Zanzara? Vi rendete conto che Berlusconi oggi in campagna, sì, in campagna elettorale, in conferenza stampa è stato capace di dire tutto e il contrario di tutto, che lui è candidato, che poi può candidare Alfano, che se Monti si candida lui fa un passo indietro e poi anche Montezemolo se glielo chiede, è successo di tutto, cioè nulla. Ho bisogno di sapere cosa ne pensa Gianni Boncompagni. Buonasera. No, grazie, buonasera. Prima voglio sapere come cazzo fate, sì, a fare in modo che il giorno dopo tutti i giornali riportano quello che voi dite. Perché siamo dei paraculi, siamo paraventi. Minacciate gli editori, i direttori, li minacciate o ci pubblicate o prima mettiamo una bomba, così fate. È possibile anche questo, però io ci sono varie opzioni. Primo, siamo, come ricatti, dire, siamo, si chiamano ricatti, compagni, ricatti, o siamo bravini ricatti, o siamo paraculi. Sono tre possibilità. Beh, insomma, sembra altro, non so, io lo vedo, mi dicono "Ah, la zanzara". Anche lei è caduto nel tranello della Zanzara una volta quando ha sparato. Sì. Sì, intanto è caduta la telefonata, però. Se fossero tutti come lui, gli ospiti, altro che giornali. Giacomo D'Alecco, intanto, su, Giacomo. Poi non avesse mai fatto la radio, buon compagno. Ma sì, ma insomma, buon compagno. Dovrebbe saperle due, tre regolucce. Siamo, no? Ai maestri, insomma, siamo ai maestri di questo. Dov'è finito, buon compagno? Che ne so, adesso lo recuperiamo. Giacomo? Che anche nel nome è finito. Buonasera. Vada. Voi siete paraculi comunque per dilettere il vostro dilemma, siete paraculi tu che... Siamo paraculi? Sì, siete peggio del gatto e la volpe voi con Pinocchio. Aspetti un attimo che ho recuperato buon compagno. È tornato. Vabbè, buon compagno, che siamo? Paraculi, furbi, bravini oppure... Siete bravi, che dire? Non lo so, io se lo dice lei, maestro della radio nel tempo vabbè, che maestro della radio, siete bravi. È stato un po', è stato un maestro della radio lei. Beh, diciamo, vabbè, insomma, ho capito. Ci faccia godere, buon compagno, ci faccia godere. Con Berlusconi, ha visto oggi la conferenza stampa di Berlusconi? Con fantastiche definizioni. Ah, l'ha visto pure Berlusconi? Beh, non l'ho visto, ma lo so però, insomma, lo sa, ma no, questa faccia qui, la faccia, a me mi colpisce la faccia. Se lei va adesso su Corriere.it c'è una fotografia, so che dirla alla radio è strana, c'è una fotografia che colpisce molto, sarà forse la luce, è una cosa pazzesca, sembra quasi luce, sì, che abbia ricevuto un pugno nell'occhio Berlusconi, è una cosa... Non l'ho vista, la guarderò dopo. È una maschera pazzesca, una maschera trasfigurata. Vabbè, ma lui è così. È così, è così, ma eppure c'è gente. Se lo dovete beccare così, l'avete votato. Io qualche volta. La Zanzara ha votato sempre Berlusconi. No, io ho votato qualche volta Berlusconi, sì, lo ammetto. Non ci credo. Io mai. Sì. Io mai. Io l'ho votato, ma. Ecco, chi è che ha detto io mai? Parenzo. Mai. Però scusi, buon compagno, il fatto è questo: per me il voto finisce nel momento in cui metti. Non è che mi timbra, cioè non è che mi definisce per tutta la vita. Io ho votato qualche volta Berlusconi, mica sarò segnato per tutta la vita, perché purtroppo. O sì. No, beh, insomma, è un peccato non veniale. Sono stato un coglione, dice lei, a votare Berlusconi. Sì, credo di sì. Come tutti quelli io toglierei il credo. Cioè, tutti quelli che hanno votato Berlusconi sono stati dei coglioni, secondo lei? Bravo. Ma no, beh, buon compagni, su. È così, perché sì, si sapeva, bisognava saperlo. Scusi, era minorenne allora? No. Era ancora minorenne? Ha ragione. Guarda, i minorenni sono altri, quelli che vanno da altre parti. È sparita, tra l'altro, quella che fu la minorenne. Sparita, sì. Che trucco, truccaccio. Quello, vabbè. Ma secondo lei c'è ancora gente disposta a votare Berlusconi? Io, per esempio, no. Devo dire sicuramente, sì. Gli anziani che vedono tu solo le reti di Berlusconi, sì. Le quattro reti, cioè... quattro, Italia 1 è di Berlusconi, Rai 1 è di Berlusconi. No, non più. Come no, sì, di Berlusconi, è ufficiale. Rai 1 dice, Canale 5, Rete 4 vabbè, quello che è. Canale 5. E Canale 5? E poi Porta a Porta, in più e quelle due volte ce l'ha, Porta a Porta è di Berlusconi. Sì. E Berlusconi manda i fax, infatti loro usano ancora il fax con Vespa, sì. Perché sono antichi, sì. Sanno il fax, non esistono più neppure nei ministeri i fax. Beh, insomma. Gli mando il fax, la scaletta di Vespa la fa Berlusconi. Ma scusi, la manda via fax. E lei dice, allora le vecchie, gli anziani che guardano... guardano le telenovelas. Poi? E Berlusconi è simpatico, dice le barzellette, simpatico. Beh, ma non è che lo votano solo gli anziani, ma insomma, la maggioranza quelli là, sono quelli là. Ma cosa le ricorda in questo periodo Berlusconi? Uno ha serragliato nel bunker, uno... No, guarda, io l'ho conosciuto Berlusconi, io ci ho lavorato 4 anni, quindi mi ha trattato benissimo, non posso dire niente. Ti ha pagato ancora moltissimo. Mi ha riempito di soldi, poi era ancora sceso in politica, sì. E quindi era gentile, come è stato sempre gentile, non posso dire niente come per persona, come politico sì. Come politico, vabbè, sì. Come politico deve essere mandato come gli altri a Guantanamo. A Guantanamo pure lui, A Guantanamo. Ma, io dico sempre Guantanamo perché tutto sommato Guantanamo è nei Caraibi, è caldo, si sta bene, capito? Non è che si sta male. Vestiti con la tuta arancione, con la Sant'Anché, parlano. Anche Cicchito può andare là. Pure Cicchito? Sì. Lo sai che Parenzo fa benissimo l'imitazione di Cicchito? Com'è che fa Cicchito? Parenzo, come fa Cicchito? Guarda, questo buon compagno è veramente un cretino, anche del nome tra l'altro, buon compagno, un compagno, ma è un cretino, guarda, è veramente un cretino, guarda, arrogante cretino. Fa così, le Cicchito, è una bella imitazione. Bravo. Ma Brunetta che dice che non hai soldi Brunetta, per... Brunetta è già a Guantanamo, credo sia già andato. Come già? Dice che non hai soldi per pagare l'IMU. No, ma l'hanno mandato a spese dello Stato. Ma scusi, era un vecchio, insomma, come dire, un DDL di Monti, di legge l'ha mandato, e lui è là, bello con la tuta arancione, dice che sta malissimo con la tuta arancione, perché non lo slancia, capito? Ma dice che non hai i soldi per... perché sta cosa della tuta arancione che non lo slancia mi ha fatto ridere. Ma dice che non hai i soldi per non pagare l'IMU. No, poveraccio, poveraccio, infatti l'hanno mandato là, non paga niente. Non c'è bisogno di IMU. No, che l'IMU, no, per carità, no. Vabbè, la richiamo tra un attimo che ho la pubblicità, lei sa che cos'è la pubblicità, no? Poco pare, sì. Mi pare di sì, la pubblicità sì, quindi devo aspettare la gogna. La richiamiamo noi, non c'è nessuna gogna, la richiamiamo noi. Vabbè. Alleanza di Centro per l'Italia. Per quelli che hanno voglia di cambiare. Per quelli che hanno voglia di cambiare. Alleanza di Centro per la storia. Per la storia. Per questa nostra patria da salvare. Perché c'è una patria da salvare? Secondo Pio Nati. Chi non ha più santi da pregare. Chi non ha più santi, com'è, Parenzo? No, guarda, non riesco a pronunciare le parole di questo inno, ti chiedo scusa. Di chi non ha uno straccio di lavoro. Ah, di chi non ha uno straccio di lavoro, sì. Straccio di lavoro. Alleanza di Centro per l'Italia, perché vi ho proposto questo straccio? Ma c'è della gente che sta andando in macchina, è pericoloso se fai. Lo so, è pericoloso, lo so. Ci potrebbero essere degli incidenti molto gravi. Tamponamenti a catena, è vero, ma morte dei primogeniti. Ci sono due signori, uno si chiama Francesco Pionati. Francesco Pionati, ve lo ricordate, no? L'ex mezzo busto della Rai, eccetera. E Gianni Fontana. Tu sai chi è uno che si chiama Gianni Fontana, Parenzo? Gianni Fontana. Adesso Beh, è importante sapere. No, il signor Gianni Fontana è uno che ha il simbolo in mano della Democrazia Cristiana dopo una sentenza del 2010 della Corte di Cassazione. No, ha il simbolo della Libertas, sai, quello scritto Libertas, no? Libertas si dice. Allora, Pionati e Fontana vogliono resuscitare la vecchia Democrazia Cristiana in vista delle elezioni politiche del 2013, cioè mettersi insieme, riproporre quel simbolo lì, allearsi con Berlusconi. Dicono che possono prendere il 2%. Ma altro che ambulanza! Altro che ambulanza! Quale ambulanza? Qui ci vuole un reparto intero! Ma vi rendete conto o no? Personaggi degni del proscenio, con un nocchiero in gamba per il mare. Oggi Berlusconi in mezz'ora è riuscito a proporre tre candidati premier. Tre, se stesso. Dicendo che comunque rimane candidato premier. Alfano e Monti. Poi ha fatto pure un passaggio su Montezemolo. Robbe da pazzi. Ma scusi, compagni, secondo lei Berlusconi ha dei problemi? Lui? Beh sì, credo di sì. Cioè psicologico, dice di testa, cioè ha no, dei problemi. Incasinato, è tutto, non è sereno. E vabbè, il telefono di buon compagno non funziona. Tra l'altro, è uno che ha fatto radio, cioè lo sa che deve stare. Non ti permetti però di sgridarlo. Il suo buon compagno, come fai con me? Adesso ti faccio ascoltare un'altra cosa divertente. Aspetta, aspetta, un'altra cosa. Luca Funcello nasceva, ma nessuno lo conosceva. Luca Funcello nasceva, ma nessuno lo conosceva. Luca Funcello nasceva in da stallo, e ve lo giuro, non dico una palla, ma tutti i pesci salire in accanto. Francesca Pascale, la nuova Lady Berlusconi, esordì così a Telecafone. Ovviamente questa non è la voce sua, ma un tale che si chiama Oscar Di Maio. Hai capito dove è nata la nuova Lady Berlusconi? Vabbè, ma questo sai. Era una bellissima ragazza, giovane, a Telecafone. Vabbè, ma insomma. Perché ormai è ufficiale, Francesca Pascale è la nuova fidanzata di Berlusconi. Ce l'ha annunciato quella che Boncompagni vorrebbe a Guantanamo, cioè dire la Santanchè, sentite. Questa ragazza che ormai da un po' di tempo a questa parte è accanto a Berlusconi, lo vogliamo dire chiaramente che è la fidanzata di Berlusconi, la signora Pascale? Ma non è che lo devo dire io, lo dice il Presidente. Ma io dico, per me è una cosa bellissima. Io la conosco, sì, certo. Come la fidanzata? Come la fidanzata? Che ne so? Lo dice anche il mitico Apicella, mitico Apicella. Conferma. Ma Francesca Pascale è la fidanzata di Berlusconi, lo sanno tutti, veramente una bella cosa, stanno bene insieme, lei è contentissima. Scusi, no Picella, voglio capire, ma Berlusconi è molto innamorato secondo lei? Sì, assolutamente sì. È pronto a un nuovo matrimonio secondo non lei? Tuba. No, penso di no. Però penso un figlio ci potrebbe stare. Se se la sentono loro, perché no? Perché no? Allora la prossima volta che io ho il piacere di incontrarlo, gli dico Presidente. Buon compagni, lei immagino. Ma che era Picella, era il chitarrista di Berlusconi, quello là. E come no, anche lui. Anche lui conferma che la Pascale, lei ha visto questa nuova compagna di Berlusconi, quasi 50. Bella donna. Bella ragazza. Beh, potrebbe essere cioè sua nipote, diciamo. 50 anni di differenza, ma questo non è un problema. Certo, non è un problema, no. Però voglio dire, ormai non è più giovane, però. Più questa cosa qua. Adesso il fatto di Sanremo è importante, questo fatto di Sanremo. Cioè, questa cosa che potrebbero interrompere, cioè rinviare Sanremo per elezioni. Sembra che abbia proposto Berlusconi al posto di Fazio e la Littizzetto, sì. Vespa e la criminologa, l'Abruzzetto, come si chiama la? Sì, l'Abruzzone. Bruzzone, questi due, perché lui non bestemmia, né dice le parolacce. Vespa è educato, sì. Non ha... Vabbè, Fazio è educato, cioè bisogna dire. Pure Fazio è educato, diciamo, da quel punto di vista. Fazio dice che lui dice molte parolacce quando è in privato. Sì. Vabbè, comunque lui preferisce. Anche bestemmia molto. E l'Abruzzone è meglio. È un grande bestemmiatore. Sì. Fazio. E invece. L'Abruzzone no, lei ogni tanto dice delle parolacce. Ogni tanto dice la parolacce, non va però bene. Però loro l'hanno convinti di essere a posto. in regola e le presentano loro. Dunque non solo c'è il rinvio, diciamo, dopo le elezioni, ma anche la sostituzione dei conduttori. Sì, sì, così sono più sicuri, inutile stare a rischiare che la distintezza dica delle solite parolacce, capito? Sì. E Fazio con Saviano, capito? Sì, ho capito, ho capito. Perché Fazio voleva invitare Saviano, quando lui e loro hanno detto, ha sentito Saviano, sono fatto il segno della croce, hanno pregato per un'ora di fila. Zitto ha pregato, perché lui prega molto. Sì. Ha fatto una preghiera di un'ora insieme a Letta. Sì. Hanno pregato per un'ora solo per il nome di Saviano. Ti ricordo. Vabbè, ma io voglio capire una cosa, ma alla fine, ma non le sembra una follia lei il fatto che bisogna rinviare Sanremo? Sì, è una follia, però vi stupite di questo? No, no, non ci stupiamo, ma insomma, voglio dire, cioè, adesso, va bene tutto, ma addirittura che... A me non mi stupisci, io non sono stupito di questo. Ho capito, ma insomma, perché, qual è l'intreccio? Qual è la cosa? Veramente la paura di non che durante Sanremo possa accadere qualcosa? Sì, sì. Ah, lei così, hanno una FIFA nera che durante Sanremo... Le cose elettorali, come si chiamavano, quegli incontri elettorali vengono sminuite, vengono annullate e annientate dal clamore di Sanremo, quello è la... E basta una parola, la sola presenza di Fabio Fazio, del tizzetto anti-berlusconiani, mette in difficoltà, potrebbe mettere in difficoltà. Sì, assolutamente, un festival del genere con ascolti 10-20 milioni, loro anche se sarebbero... Lei dice che gli avevano proposto di farlo, però vestita da suora. Sì. Lei ha rifiutato. Sì. E Fazio da vescovo ha detto non ci penso nemmeno. Sa, con quel vestito lì è già subito una garanzia e più consono a tutta la situazione. Sì, assolutamente. L'hanno rifiutato. Scusi un attimo, ma invece Grillo che caccia i due dissidenti, come lo vede? Io lo vedo grandissimo. Beh, lui è così, fatto così, però insomma... È un grande, è un grande. Dico la verità, io... A me tutto sommato mi è simpatico. Bravo, anche a me, anche a me. Quando fa... no. Se tu poi non vuoi stare in quel movimento perché le regole non ti piacciono, ma te ne vai. Però lui è un matto, un po' strano, però insomma è bravo. Lui, gli altri non hanno fatto quello che ha fatto lui, senza una lira, senza fare strane cose, insomma un po' matto, certo, però è forte. Che c'è? Che vuoi, Parenzo? Che cosa fai? La democrazia? No, ma che c'entra la democrazia? Anche Boncompagni mi cade su questa cosa qui del dittatore Ron Hubbard, il capo di Scientology è Beppe Grillo, non può il Boncompagni. No, ma chi l'ha detto? Parenzo lo dice. Lo dice. No, Parenzo. Ma è antico lui. Ma no, ma che Scientology? Ma non è vero, non è assolutamente vero. Ma ti pare che questo qui caccia due persone semplicemente perché non è d'accordo? Non è che li caccia, dice non potete utilizzare il mio simbolo perché voi non avete detto che io sono un dittatore, uno che minaccia la democrazia. E allora così è, va bene. E vai andate a casa, cioè non potete utilizzare il mio simbolo, va benissimo. Cioè, siamo d'accordo. È certo, una cosa un po' strana, ma è tutto strano. Meglio di Cecchitti, ma che ce l'hai lei ce l'ha tanto con Cecchitti? Guarda questo tuo compagno vicino di casa, l'ho incontrato, lo vedo sempre in macchina, non mio vicino di casa. Ah, non le piace proprio Cecchitti? No, si parla di persone, si parla del partito, loro idee, del loro modo di vivere, di fare, di dire, dicono delle cose strappalate. Secondo me buon compagno, l'unica cosa che salva è Berlusconi, che c'ha sta ragazza molto molto giovane. Ah, può essere. L'unica cosa che lei salva di Berlusconi è questo, buon compà. No, questo non l'ho detto io, ma comunque, insomma, non lo salva come politico. No, sto dicendo a livello personale, non ci trovo... Certo, beato lui. Beato lui. Vabbè, cioè, è una donna di 50 anni più giovane. Ma 50 anni di più giovane? Vabbè, ma che 50 anni? Qual è il problema? È maggiorenne, c'ha 26 anni, qual è il problema? Ma vedi che la cosa figa sarebbe se Berlusconi si fosse preso una di 50 anni più vecchia. Sì, è vero. Un cadavere. Doveva prendersi una di 50 anni più vecchia, cambiarle ogni giorno il catetere, depilarle le ascelle. È vero, sarebbe stato più originale e avrebbe fatto molto successo con le anziane. E invece lui si è preso una di 50 anni più giovane. Cioè non è comunque non ancora, prende, ancora prenderà voti, buon compagno, non si preoccupi. Io non mi preoccupo. Io non la voto più però. Me lo dica, sono stato un coglione. Cruciani, lei è stato un coglione. Sì, è così. Però pazienza, si perdona tutto. E diciamo che il suo reato è stato prescritto. Danilo da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani e Parenzo. Finalmente sono d'accordo con te. Su che cosa? Sono d'accordo pure con buon compagni. Cosa? Su che cosa? Ah, su tutto, su tutto. Il fatto che finalmente ti sei dato del coglione che hai votato Berlusconi. Ma stavo scherzando. Che sei diventato finalmente qualunquista. Ma come stavo tutto scherzando. Il popolo italiano, che sta una massa di cialtroni. Stavo scherzando. Stavo scherzando. Io d'accordo. Stavo scherzando. Però l'anno scorso mi ricordo bene che dicevi che eravamo tutti qualunquisti perché si voleva fare fuori tutta la classe dirigente. E invece adesso. Ma io non ho mai detto. No, assolutamente non è così. Ma come non è vero? Ma no, assolutamente no. Non ho mai detto che bisogna far fuori tutta la classe dirigente, non ho mai detto ma questo. Ma prima hai detto che ci sarebbe bisogno del governo tedesco. Ma che c'entra? Ma quella, ma come stile, ho detto. Ma come stile politico, cosa c'entra? Ma stile politico che oggi il tuo figlio Berlusconi ha detto, ma che il mio non è mai oggi stato mio. Non è mai stato mio, caro Danilo, non è mai stato quell'altro mio. Quell'altro Bersani che poteva vincere se vinceva Renzi e invece ha deciso che vogliono riperdere questa volta. Sono la massa di cialtroni tutte e finalmente anche tu sei d'accordo. Io volevo complimentarmi. Ma lei non capisce, lei è talmente ottuso che pensa che il fatto di aver dato il voto a qualcuno, io ho votato per un sacco di persone, significhi un'appartenenza politica. Il mio voto per qualcuno inizia e finisce nel momento in cui io deposito la scheda nell'urna. Finisce lì. Non è che poi uno ha un timbro schiacciato in fronte. La volete finire con queste assurde classificazioni? Ma io infatti non l'ho mai detto. Allora basta, su. Che appartiene a uno schieramento politico, però insomma che finalmente uno ammette anche i propri errori. A me ma quali errori? Ma stavo scherzando con buon compagni. Allora era per scherzo. Paolo da Siena, buonasera. Paolo? Sì, pronto? Sì, eccomi. Dica. Allora, io una volta nato non sono d'accordo con lei sulla italianità di Berlusconi. In che senso, scusa? Perché lei sottovaluta questo comportamento di Berlusconi nei riguardi della Lega. Un ascoltatore gli ha fatto notare che aver dato la disponibilità di dare alla Lega anche la Lombardia era un atto di anti-italianità. Ma che c'entra l'atto di anti-italianità? Sono questioni politiche. Cosa c'entra l'anti-italianità? Ma sono stronzate queste qua. Sono cose farneticanti. Che poi non vinca Maroni. Scusi, ma tanto avergli dato la candidatura e l'appoggio ufficiale da ma parte cosa del c'entra PDL, l'anti-italianità? Cioè non c'entra assolutamente nulla. La Lega è anti-europea. Ma quale anti-europea? Come no? Ma sì, ma è contro alcune cose dell'Unione Europea, certamente. Ma come contro alcune cose? Vabbè, ho capito, ma se lei contesta la Lega in quanto tale, va benissimo, mi sta bene. Però addirittura che l'alleanza Berlusconi-Maroni-Lombardia sia un atto di anti-italianità di Berlusconi mi sembra una stronzata. Cioè, Paolo, dopodiché poi lei lo pensa, va benissimo. Vabbè, possiamo anche non essere d'accordo, infatti non siamo d'accordo. Però il fatto che Berlusconi eventualmente se vincesse alla Lega tutte e tre le regioni più importanti, ma guarda d'Italia, che poi si andrà a votare nel Veneto e Piemonte, non è che sine die, cioè non è che Veneto e Piemonte restano nella Lega per l'eternità, cioè, probabilmente non ci sarà più un governatore della Lega in Piemonte, per bravissimo, esempio. Esatto, bravissimo. E allora? Allora se vincesse eventualmente, tanto questo non ma poi la gente va a votare, non è che uno viene là, la Lega governa le regioni non perché l'ha deciso Berlusconi o l'ha deciso Maroni, perché c'è la gente che è andata a votare. Di che parliamo, su? Ho capito, ma se Berlusconi e l'elettorato PDL appoggia la Lega, appoggia questa candidatura di Maroni, si realizzerà per la prima volta. E certamente lei ha ragione, non è per l'eternità. Si realizzerà cosa si realizza? Un asse di tre regioni. È un asse di tre regioni, fra poco si andrà a votare nel Veneto e in Piemonte, vediamo se gli italiani lo confermeranno questo asse oppure no. Cioè, c'è sempre la democrazia, il voto delle persone. No, ma infatti qui si stava parlando della italianità di Allora, intanto Pinuccio scatenato su Twitter: rinuncio se Monti adotta dell'Utri, rinuncio se Monti apre la birra con l'accendino. Vabbè, insomma, evidentemente la satira si scatena. Aldo da Roma. Aldo? Non c'è. Alberto da Foggia. Buonasera Cruciani, buonasera Dica. Parenzo. Volevo intervenire per quanto riguarda Boncompagni. Sì. No? Tanto lo so dove vuole andare a parare lei. Sì, ma è più di una volta che parla di minorenni, di minorenni. No, veramente questa volta non ha parlato, anzi ha voluto un po' scansare l'argomento. Quando lei ha detto che ha votato Berlusconi, lui ha detto, ma forse eri minorenne, quando eri minorenne. Ah, vabbè, perché... Ma lui, il suo harem, quando faceva, non è la Rai, Ambrangiolini e le altre, quanti anni avevano? E beh, allora? Ha copiato da lui Berlusconi. E che ne so? Dico io, a usare le minorenne, non lo so, insomma, questa è una... Poi, per quanto riguarda il discorso dell'entrata in campo di Berlusconi, io che l'ho votato dico che sta sbagliando, perché non sa più che pesci prendere. E alla fine sta subendo tutto quello che diciamo i suoi avversari politici stanno cercando per non so, per non farlo entrare in campo. Alberto, lei è un po' confuso. Non è che sono confuso. No, è per carità, non è che le do torto sulla confusione. Non è l'unico. Si rende conto di quello che sta succedendo anche contro Grillo, tutti quelli che stanno andando contro sì. Grillo adesso stanno facendo la battaglia contro gli avversari di quelli che sono di Bersani. Non ho capito niente. Io la combatto da ore. Berlusconi oggi su Monti, sentite, sentite Berlusconi su Monti e cerca il posto migliore con le ambulanze che arrivavano a sirene spiegate. Se questa posizione che Monti mi appalesò in un discorso molto serio e approfondito cambiasse, io dichiaro che per quanto mi riguarda non avrei nessuna intenzione a ritirare una mia candidatura eventuale alla presidenza del Consiglio. Potrei. Potrei accettare di non essere. Poi a un certo punto ha detto che non esclude di candidare al Fano Premier, ha detto che lui è ancora candidato, ha detto una cosa su Montezemolo. E poi l'hanno portato via a un certo punto. No, è andato via da solo. Questo lo dici tu. E pensare che una volta era il mago della comunicazione. Pensare che una volta andava lì in conferenza stampa e sbaragliava tutti. Andava davanti ai giornalisti e sbaragliava tutti. Fino al Predellino e anche oltre. Onna, di rigore. Una volta era il re della comunicazione, questa volta c'è la confusione più totale. La confusione più totale. Secondo me anche questa vicinanza, questo nuovo amore lo ha un po', come dire, no? Bah, adesso questo non credo. Michele da Roma. Michele da Roma. Buonasera. Dica. Ma di cosa vi meravigliate? È tutto programmato. In che senso? Questa conferenza stampa che ha fatto oggi praticamente non fa altro che seguire una linea ben programmata. Qualcuno mi dice che si dice Libertas e non Libertas, ha ragione Parenzo, Libertas. Libertas. Vabbè, allora Michele. Ritorniamo al punto. Sì. Secondo me è tutto programmato per il semplice motivo che sta cercando, sotto consiglio di Mortimer, il suo avvocato, di procurarsi l'infermità mentale prima del processo di Rubi. Ah, dice. Sì, sì, assolutamente. Sì, no, ma come fa un tizio a dire tre nomi per il presidente del consiglio? Prima faccio un passo indietro, poi si presenta avanti, poi fa tre nomi, poi mi associo a Montezemolo. Ma veramente folle. Secondo me lo sta facendo apposta per procurarsi l'infermità mentale. Grazie, Marco. Marco da Roma, velocemente, velocissimamente. Sì, velocemente. Buonasera a tutti. Oggi una puntata memorabile. Ma lei ha perso tempo già, dica. Degna. Allora, volevo sapere, dove era finito Buoncompagni? Avete fatto una puntata memorabile. E poi una cosa, Parenzo e Cruciani, accetto voi due, quando chiamate la Santanchè, gli italiani devono spegnere la radio. Basta. A domani, 18:30. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Cala, cala. Radio 24. La passione si sente.